battito d'ansia, battito d'angustia, battito d'ombra, battito d'amore, battito mattutino, battito meridiano, notturno, battito, battito estivo, battito invernale, in primavera battito e battito autunnale, frullato in petto, rimbombo costale, affanno, affanno, pensiero carnale, mente scesa nel petto, petto in gola, ben sano palpito, ossessiva parola, parola senza voce, emissione con suono, percussione corporea, rimbombo di felpato tuono, sistole e diastole che si fanno la guerra, girotondo da matti, capogiro di terra, battito sgomentante, battito mio, mio battito costante. So che morto esso m'allagherà, esso cuore, esso battito, so che m'allagherà. Sparirò nel lago, sparirò nel cuore, esso cuore, esso battito, chi? Cor matris, maternale suo cuore, maternale suo battito.